Nico. Hanno sempre fatto tutti parole, de smettila così sembri un coglione. Tu, continua quelle Instagram stories. Nel frattempo nella mia testa faccio fuori mille colonie. Tempo di guerra, schiero la mia voce, schiavo di impero senza luce. Usiamo le torce e una massa di follower ci conduce. Non esiste più, ti amo, troppo ego. Inizio tutto con un ti seguo, like, tattici per menti fragili. Non ti conosco ma so chi sei, cosa fai e dove abiti. Non ti fidi, sì solo di Siri, è l'unica che non potrebbe mai mentirmi. Sul tuo primo iPhone, io con mio fratello sul Phantom, su una flotta sognando. Ripenso tutto a questo, ma che ne sanno, ma che ne sanno, ma che ne sanno. Ehi ehi, ma che ne sanno. Osserva, catturo bambini senza futuro, ti assicuro non ce n'è uno almeno che non è raccomandato. Se non sei figlio di un medico o avvocato verrai sempre giudicato, quindi mira sempre dritto al centro, segui l'istinto e non quello che c'è dietro. Ti compreranno sempre alle spalle, anche un migliore amico a volte diventa un infame.